messo tutto a repentaglio. La gente parla di me ma non sa quanto pesa il mio bagaglio, e mi dice pure che sbaglio se rimango qua. Ma io non cambio mai, no io non cambio mai. Eppure se dici che sbaglio, non cambio mai, non cambio mai. A 16 anni mollavo la scuola, in bocca una canna, bocciato di nuovo. Ho detto a mamma, là non ci torno, è la mia parola. Poi lei in 24 ore mi ha detto cos'è l'amore. Prendere il cuore e trasformarlo in un oggetto senza valore. Dalle scritte sui diari a quelle sui binari, imprinting musicali, gli istinti suicidari, le droghe, l'alcol, l'erba, l'apatia, i medicinali, l'amore per questa merda, i vostri dischi tutti uguali. L'avevo promesso fin dal primo giorno che sognavo che sarei stato lo stesso, anche se fossi caduto dal sesto piano. Non mi chiamare più a questo orario, non so rispondere al questionario. Quello che so è che ho perso, sbaglio. Non puoi convincermi del contrario, mai. Forse ho perduto troppo spesso, mai stato un venduto sottomesso. È stata la prima cosa che ho promesso, essere vero è l'unico compromesso. Ho messo tutto a repentaglio, la gente parla di me ma non sa quanto pesa il mio bagaglio, e mi dice pure che sbaglio se rimango qua. Ma io non cambio mai, no io non cambio mai. Eppure se dici che sbaglio, non cambio mai, no. A 16 anni la figa e le droghe, poi noto l'invidia che rode, che tutta la vita è una frode, chiunque fatica non gode. Dio non ho imparato preghiere, ho scritto intere pagine vuote senza mai farmi vedere, coi drammi grammi il bicchiere, antisociale eremita, da dove vengo non c'è scelta, avere talento e croce certa, devi incrociare le dita. Io tossico terrone, il prossimo che muore, fallito con un litro di monossido nel cuore. Anni di buio, fatti di brutto, attacchi di panico, pacchi di fumo, carichi studio per chiudere i brani, eludere i piani di studio. Puoi tendere all'eccesso, spesso perso nell'alcol, per essere me stesso, non ho chiesto nient'altro. Le notti senza lei, il beat, il beat, fino alle 3:30 in play. Pensa senza che sarei, vendo sogni al dettaglio, sogno soldi a ventaglio, sbaglio, sto a repentaglio, come chi vende al dettaglio. Ho messo tutto a repentaglio, la gente parla di me ma non sa quanto pesa il mio bagaglio, e mi dice pure che sbaglio se rimango qua. Ma io non cambio mai, no io non cambio mai. Eppure se dici che sbaglio, non cambio mai, no, non cambio mai, cambio mai, cambio mai.